In un liceo pubblico a Grosseto si è tenuto un convegno particolare. Il tema era la crisi climatica, ma gli esperti intervenuti sono stati quasi tutti negazionisti a vario titolo, alcuni anche con qualche qualifica curiosa, amministratore del sito web XY e così via. E un convegno di un simile tenore si è tenuto a Verona, stavolta organizzato dalla Lega, con il celebre e discusso fisico Battaglia. Inizio col chiederti: qual è l'identikit di questi negazionisti e quali sono le loro tesi? Ma diciamo che l'identikit di queste personalità è, diciamo, simile, nel senso che la pattuglia, chiamiamola in questo modo, dei negazionisti italiani comprende personalità che sono più o meno sempre le stesse, ci sono anche addirittura dei docenti universitari dell'area, diciamo, geologica, chimica, appunto Franco Battaglia è un docente di chimica fisica e quindi comprende anche delle personalità che hanno in effetti, allo stare da un curriculum scientifico, possono vantare qualche credenziale scientifica che, ahimè, poi spesso a un pubblico non informato fa apparire come anche autorevole e competente le loro affermazioni, però non hanno quasi mai, anzi direi praticamente in nessun caso, tranne forse nell'unico caso di Scafetta, delle competenze specifiche sul clima e sul climate change. Però nello stesso tempo possono vantare, ecco, un curriculum scientifico e questo basta spesso agli organizzatori di questi eventi per invitarli appunto e per presentarli come competenti. Peraltro non dobbiamo dimenticare che questo gruppo di docenti, di personalità, qualche anno fa, se non sbaglio nel 2019, aveva partecipato addirittura a un convegno, non meno che alla Sapienza a Roma, cioè in una delle più importanti università italiane, si era tenuto un convegno con questi personaggi, che era stato poi anche contestato, ovviamente, aveva mandato i suoi saluti anche il prorettore, se non ricordo male, e quindi comunque sono dei personaggi che ritroviamo anche in contesti accademici, ecco, non soltanto in eventi così bizzarri o politici. Quindi è un identikit di personalità che si presentano come scientifiche, ma che non hanno delle competenze specifiche sul clima. Quindi, un po' riassumendo, poche, sempre le stesse, ma inserite in ambienti d'establishment, d'accademia, che contano non solo il classico personaggio del blogger col cappello di stagnolo in testa, giusto? Esattamente, che è un po' lo stereotipo, no? Così del complottista, di quello che crede nelle sciocchine, nella terra piatta, ecco. Noi ci facciamo spesso questa idea della disinformazione scientifica. Un altro episodio di questi giorni che anche tu hai commentato è uno scambio sul Corriere della Sera tra i leader di Europa Verde, Leonora Evi, Angelo Bonelli e Federico Rampini, il noto editorialista da poco in forze al giornale di Via Solferino. Ecco, ce ne parli un po'. La lettera è stata scritta, se non sbaglio, dai due leader dei Verdi che hanno risposto a un articolo che aveva scritto Rampini recentemente sulla transizione energetica e dove sostanzialmente Rampini cercava di parlare della transizione energetica elencando quelli che erano i problemi, no? Quindi per esempio legati anche alla guerra, la scarsità di materie prime, quindi il fatto che la Cina, insomma, abbia in parte ancora oggi il monopolio, insomma, di certi materiali, comunque abbia un'influenza a livello globale in questo settore, però diciamo che la cornice, ecco, di questo intervento era una cornice molto polemica nei confronti dell'ambientalismo. Era definito una religione neopagana, pronta a scomunicare come antiscientifico chi si dissocia, no, dai dogmi di fede, oppure la polemica contro Greta Thunberg, che è sempre, diciamo, centrale in questo genere di interventi, l'ambientalismo occidentale, radical chic, insomma, ecco, quel pensiero contro il politicamente corretto che negli Stati Uniti va molto di moda, sono quelli tra i conservatori, eccetera. Quindi era un articolo in cui si dicevano anche alcune cose, diciamo così, anche sensate, o comunque degne di essere discusse, come tutti i problemi che riguardano appunto la transizione energetica. Però di fatto il messaggio che si veicolava era un messaggio per cui la transizione energetica è una specie di fissa degli ambientalisti occidentali radical chic che vogliono impedire ai paesi poveri di svilupparsi, che se ne fregano dei poveri, che se ne fregano di quelli che abitano nella Bengala, e dove poi così si lanciava una polemica anche nei confronti di non meglio specificati scienziati che addirittura manipolerebbero la scienza sul clima.